giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ritorno del presidente, domani Mattarella a Gorizia per ricevere con Borut Pahor il premio dei patroni, l'attesa in città per la cerimonia al Verdi. A Trieste l'ambasciatore tedesco Lucas, la visita alle strutture portuali e alla risiera di San Sabba. Il test di medicina spostato dopo il primo semestre, anche da Udine un coro di no, le reazioni del direttore del dipartimento e degli studenti. Neve in montagna e pioggia sulle altre zone fino a domenica, poi sereno con bora e rischio di gelate in pianura, le previsioni dell'ARPA. Al via Olio Capitale, edizione numero 17, al centro congressi di Trieste e del Porto Vecchio, oltre 200 espositori. Pordenone, gli ultimi appuntamenti di Design Week, laboratorio per 250 giovani su case aziendali con 7 imprese del territorio. Basket, Coppa Italia di A2 in palio a Bologna. Udine e Cividale stasera cercano la qualificazione a una finale tutta friulana. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. A pochi giorni dalla visita precedente, torna domani a Gorizia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in queste ultime ore è stato di nuovo al centro di attacchi da parte dei diplomatici della Russia. Il Capo dello Stato riceverà al Teatro Verdi il premio dei patroni insieme all'ex Presidente sloveno Borut Pahor. Sentiamo. La vigilia è il giorno degli ultimi preparativi e dei sopralluoghi. Il presidente Sergio Mattarella torna a Gorizia per ricevere il premio Patroni insieme all'ex capo di Stato sloveno Borut Pahor. A vigilare sulla sicurezza dell'evento del Teatro Verdi ci sarà un centinaio tra uomini e donne delle forze di polizia. Da quel punto di vista, proprio perché si svolgerà tutto al chiuso, sarà più agevole la gestione della sicurezza rispetto all'inaugurazione della capitale europea della cultura dell'8 febbraio in Transalpina. In 400 parteciperanno alla cerimonia di consegna del riconoscimento, posti assegnati a cittadini che hanno già richiesto e ricevuto l'accredito. Il premio, dedicato ai patroni di Gorizia, Sant'Ilario e Tazziano, è solitamente riservato a goriziani, ma questa volta l'edizione è speciale, nell'anno della capitale europea della cultura, transfrontaliera. I due presidenti hanno coronato un lungo percorso di riconciliazione tra i due popoli dopo i traumi del Novecento, con la visita congiunta mano nella mano alla foiba di Basovizza, seguita all'omaggio al cippo che ricorda gli antifascisti sloveni uccisi. Il premio Patroni è un'iniziativa che mette insieme Comune e Diocesi di Gorizia. Avrà modo di parlare con il presidente Mattarella l'arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli. Certamente il primo messaggio da dargli è sicuramente ringraziarlo, non soltanto perché viene qui a Gorizia, ma per i suoi messaggi che sta dando all'Italia e sta dando all'Europa, ma direi anche in giro per il mondo. È stato recentemente, mi pare, in Giappone, quindi è sicuramente una figura davvero molto importante. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, è in visita a Trieste. Questa mattina è stato al liceo Petrarca. Ieri ha incontrato i vertici dell'autorità portuale ed è stato alla risiera di San Sabba. È iniziata con la visita al porto di Trieste, con cui la Germania ha una relazione commerciale diretta, pensiamo alla piattaforma logistica o all'oleodotto della Siut che rifornisce il 100% del fabbisogno della Baviera, la visita diplomatica dell'ambasciatore tedesco in Italia Hans-Dieter Lucas, che nella due giorni ha voluto anche inserire un incontro con gli studenti del liceo Petrarca di indirizzo linguistico, domande e risposte rigorosamente in lingua tedesca. La presenza dell'ambasciatore qui a scuola, ha detto la professoressa di tedesco Alessandra Ticini, dà concretezza allo studio di questa lingua. L'importanza di conoscerla, specie nella nostra Trieste, sempre più attraente per i cittadini di lingua tedesca. E per noi, come stampa, è stata l'occasione per fare il punto sul ruolo della Germania in un contesto, quello attuale, sempre più complesso dal punto di vista internazionale, a fronte del disimpegno americano in Ucraina. L'Europa sta riscoprendo il proprio ruolo, ha detto l'ambasciatore, che deve essere un ruolo di difesa dell'Ucraina dalle aggressioni russe. Germania, Italia, Francia devono essere amiche, devono sostenersi, ha detto l'ambasciatore, che tra le sue visite ha voluto includere anche un passaggio alla risiera di San Sabba, campo di concentramento nazista, unico in Italia ad essere dotato di un forno crematorio. Mi sono molto commosso a visitare questo luogo, un luogo di morte e sofferenza, una sofferenza causata dalla Germania, ha detto. Per noi la memoria è importante, io sono contento di questa visita. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornata conclusiva al MIPIM di Cannes in Francia, la più importante rassegna internazionale dedicata agli investimenti immobiliari, con 20.000 delegati provenienti da una novantina di paesi. Il comune di Trieste ha presentato il plastico interattivo e multimediale del progetto di rigenerazione urbana Porto Vecchio-Porto Vivo in uno degli eventi di maggiore richiamo del Padiglione Italia. L'interesse più vivace, fa sapere il comune, è stato manifestato da emissari dell'Arabia Saudita e dell'Oman, che a più riprese hanno richiesto incontri. È stato inaugurato poco fa l'anno accademico della Scuola Superiore dell'Università di Udine, l'istituto di eccellenza dell'Ateneo, giunto al suo 21° anno di attività. La cerimonia si è svolta a Palazzo di Toppo Wasserman e la scuola conta oggi una novantina di allievi. Intanto proseguono le reazioni rispetto al provvedimento sul test d'ingresso a medicina approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. Netti nel commentare la riforma che sposta la selezione a dopo il primo semestre, sia il direttore del Dipartimento di Medicina dell'Ateneo Friulano, Leonardo Alberto Secchi, sia i rappresentanti degli studenti. Da Roma, dove ha partecipato alla riunione dei rettori sul tema, il direttore del Dipartimento di Medicina dell'Ateneo Friulano, Leonardo Alberto Secchi, definisce operazione demagogica e populista la riforma che sposta la selezione per medicina a dopo il primo semestre. I rettori medici si dicono atterriti dal futuro scenario ed emergono tutte le difficoltà operative. Prendiamo Udine. Gli studenti al primo semestre verranno valutati in chimica, fisica e biologia applicata, ma andrà creato un programma unico perché poi ci sarà il test nazionale, con buona pace dell'autonomia di insegnamento di ogni ateneo. E bisogna farlo adesso perché entro aprile si mette a punto l'organizzazione didattica dell'anno prossimo. A Udine poi la professoressa di fisica è una sola, dovrà fare l'esame a 500 persone rispetto alle 160 attuali, con le stesse aule e gli stessi professori, perché non ci sono fondi per assumere. C'è poi il problema della graduatoria nazionale. Secondo Secchi ci si espone a una pioggia di ricorsi. Come si fanno ad avere parametri uguali se uno studente ha fatto l'esame in una regione con un professore e un altro in un'altra con un diverso docente? Verrà poi introdotto il voto cosiddetto granulare, per esempio 28.326. E se non si rientra per un decimo di punto? Anche qui i ricorsi sono scontati, continua Secchi. Il test d'ingresso era un pessimo modo di selezione, ma questo è perfino peggio, conclude. Il ministero ha nominato un tavolo consultivo per tentare di dipanare i problemi. Dicono gli studenti, non siamo mai stati ascoltati. Giorgia Dalla Libera, rappresentante degli studenti nel Senato accademico dell'Università di Udine. In questi ultimi mesi e mezzo le commissioni non sono mai sono state ascoltate, la CRU, i direttori hanno parlato chiaramente, non ci sono non è adeguata, non ci sono i numeri, non è questo il modo di agire, eppure non c'era la volontà di ascoltare, c'era semplicemente la volontà di dire sì, ma come faccio a applicarla in breve? Ma questa non può essere la risposta, perché il vero problema è che abbiamo un imbuto nelle specializzazioni che servono e in questo qui nessuno ha mai preso in considerazione di lavorare effettivamente su questo, perché gli specializzandi non rimangono in struttura, ma perché la struttura non è una struttura che li fa vivere bene, li fa lavorare bene, li forma bene. E questo è il problema. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12.38, uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia, c'è una breve tregua nelle precipitazioni su un'ampia parte della regione. Le temperature registrate alle 11, a Trieste 14 gradi, a Gorizia 13, a Pordenone 9,5, a Udine 8,5, nell'area montana Tolmezzo 4 gradi, a Sappada e a Tarvisio 0, a Forni di Sopra 5 decimi di grado positivi, 0 gradi anche a Forni di Sopra, mentre siamo sotto zero sullo Zoncolan, 1,5 negativo, sul Lussari 2,5 sotto zero. Tornando sulla costa, a grado 12,5, a Lignano 9. E ora sentiamo con Livio Stefanuto dell'ARPA quale sarà il tempo nel weekend e quale sarà la tendenza per l'inizio della prossima settimana. Continua questa fase di maltempo sulla nostra regione, avremo tre fronti che ci interesseranno nel fine settimana, uno nella giornata ancora di oggi con le ultime residue piogge sulle zone orientali nel corso del pomeriggio, mentre sulle zone occidentali si attenueranno le piogge. Dedicate in montagna, al di sopra dei 1000-1200 metri circa, ma fino a fondo valle nel Tarvisiano nel primo pomeriggio. Durante la prossima notte fino alla mattinata di domani arriverà un altro fronte, il secondo fronte con altre piogge, abbondanti o intense, e ancora con nevicate in montagna di sopra di 1000 metri circa, possibile anche qualche rovescio temporale sulla pianura e sulla costa, dove soffrirà vento dal nord-est, in genere debole o moderato. qualche schiarita sulla costa nel corso del primo pomeriggio di sabato, poi sabato sera un terzo fronte fino a domenica mattina, ancora con delle piogge in genere abbondanti o più intense sulla fascia dell'alta pianura delle Prealpi. Ancora nevicate in montagna, al di sopra dei 1200-1400 metri circa, temporaneamente a quote più basse. Con l'inizio della prossima settimana il tempo inizierà lentamente a migliorare, lunedì variabilità con ampie schiarite, da martedì invece cielo sereno ma l'arrivo di aria fredda che porterà probabilmente di nuovo qualche gelata in pianura nelle prime ore della mattina di martedì e di mercoledì. È stata inaugurata poco fa al centro congressi del Porto Vecchio di Trieste la 17esima edizione di Olio Capitale, la principale fiera specializzata dedicata agli oli extravergine in Italia. Oltre 210 gli espositori presenti, arrivati da 18 regioni italiane e dalla Grecia, con 176 oli in gara nel concorso principale. Un punto di riferimento per gli operatori del settore, ma soprattutto per il pubblico che fino a domenica dalle 10 alle 19 potrà conoscere da vicino produttori, caratteristiche degli oli e provenienze, oltre a partecipare a degustazioni e altre iniziative. Tra gli aspetti più apprezzati dai visitatori, la possibilità di assaggiare gli oli extravergine della nuova annata di raccolta. Inoltre saranno 27 ristoranti coinvolti fra Trieste e il Friuli Venezia Giulia, con piatti nei quali l'olio è protagonista, e 12 i bar che proporranno per l'occasione diversi cocktail. Disturbi alimentari sempre più diffusi tra i giovani e le aziende sanitarie mettono a disposizione strutture specialistiche come il centro diurno attivo tra Pordenone e San Vito al Tagliamento. Sono 3 milioni e mezzo le persone in tutta Italia che soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, categoria in cui rientrano anoressia e bulimia. Sono il 6% della popolazione e quasi tutte sono donne, il 90%, ma a preoccupare è soprattutto il boom di disturbi tra bambini e ragazzi già a partire dagli 8-9 anni d'età. L'ASFO, tra Pordenone e San Vito al Tagliamento, mette a disposizione un centro diurno per dare supporto a chi è in difficoltà. Il referente Gianluigi Luxardi. È stato in particolare dopo il Covid un'esplosione di questo fenomeno dovuto in gran parte alla maggiore fragilità che l'evento del Covid ha indotto. Quindi abbiamo avuto a che fare con nel 2019 l'andamento che era quello classico dell'epidemiologia, durante poi il lockdown probabilmente detto. Si è abbassato perché la gente non veniva più in ospedale e successivamente ha schizzato al doppio della domanda a cui eravamo abituati prima. C'è una grande fragilità che è dovuta a un senso di instabilità che chiaramente è del tutto nuovo, no? C'è stato appunto il Covid, c'è stata la guerra, è un periodo di mancanza di riferimenti anche a livello relazionale. Tra le cause dell'incremento del fenomeno tra i giovanissimi c'è l'abbassamento dell'età puberale nelle bambine e il sempre più diffuso impiego dei social media che facilitano i confronti con modelli di bellezza irraggiungibili. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questi aspetti, fondamentalmente noi eravamo un servizio per gli adulti. Nel tempo siamo diventati un servizio per i ragazzi. C'è una precocizzazione degli atteggiamenti che vengono assunti, quindi adesso una persona, un ragazzino, una ragazzina delle medie tende a avere un modello che è quello di una diciottenne. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si celebrerà questa sera la veglia diocesana di Quaresima dei Giovani presieduta dall'arcivescovo di Udine Riccardo Lamba. L'appuntamento di preghiera, tradizionalmente celebrato in cattedrale a Udine, quest'anno si svolgerà nel Duomo di Codroipo in occasione della settimana giubilare del Cristo Nero, l'inizio alle 20:30. Il 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia approda oggi a Gorizia per il suo secondo appuntamento dal titolo Creatività e Scienza, un breve viaggio nello studio del pensiero creativo. Protagonista Sergio Agnoli, professore associato di Psicologia Generale all'Università degli Studi di Trieste, che approfondirà il rapporto tra pensiero creativo e metodo scientifico, alle 18 nell'Aula Magna del Polo di Gorizia dell'Università di Trieste in via Dalviano. Educare alla consapevolezza digitale per proteggere bambini e adolescenti dai rischi dei social media. Con questo obiettivo il Comune di Campoformido ospita l'incontro pubblico tra like e realtà genitori e figli nell'era digitale. Con l'esperto di cyber security Ettore Guarnaccia, specializzato in sicurezza informatica e protezione dei minori online. L'appuntamento è alle 18 alla sala polifunzionale Geatti. A Pordenone l'ultima giornata della Design Week, la chiuderà un convegno a Palazzo Mantica alle 18.15. La rassegna è uno degli appuntamenti che contribuiscono all'ampio corredo culturale cittadino. Questa era la 14ª edizione. Ultima giornata di laboratori e workshop alla Pordenone Design Week. 250 studentesse e studenti hanno lavorato su casi aziendali con 7 imprese del territorio. Tommaso Salvatori, direttore Isia Roma Design. Una settimana ricca, una settimana festosa, una settimana di gioia sia per i progetti dei nostri studenti che stanno lavorando con 7 aziende del territorio sull'innovazione, sul futuro, sui nuovi scenari, sulla collettività, sul bene delle persone. Una festa per la città di Pordenone che è diventata capitale italiana della cultura. Tra le sfide anche quella di ripensare la nuova sede dell'università al Centrovalle. Il docente Claudio Pappa. Il workshop ha come committenza il consorzio, quindi è stato chiesto di far interpretare ai ragazzi quelli che saranno i nuovi spazi dell'edificio Valle, che appunto sarà la nuova sede del consorzio nei prossimi anni. Lo studente Federico Pennino. Abbiamo creato questa installazione, questi elementi dove gli utenti possono un po' giocare, possono salire e scendere in modo dinamico, appunto pensato per gli studenti per stimolare la creatività. Invece verso la zona esterna abbiamo degli elementi un po' più funzionali, panchine, tavoli, sedie, certo tutto riprendendo l'edificio progettato da Valle. Connessioni tra università e centro città, ma anche esigenza di verde e aule studio all'aperto, le priorità emerse dal gruppo di lavoro. Lo studente Andrea Bozzetto. Sicuramente la socialità tra gli studenti e le connessioni che si creano tra gli studenti, anche magari non dello stesso corso, ma una connessione anche tra istituti. Noi sappiamo che in questo consorzio è presente l'Università degli Studi di Trieste, di Udine, Elisia Roma Design, e quindi magari anche una connessione tra i vari istituti che può creare una comunità unita e migliore. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La lingua sanscrita, la linguistica indoeuropea, la funzione dell'intelletto e dell'intuizione nei sistemi filosofici indiani e occidentali sono i temi al centro del convegno Mente e linguaggio nel pensiero indiano ed europeo organizzato dall'Università di Udine oggi e la prossima settimana, venerdì. Il primo appuntamento sarà dedicato alla scoperta del sanscrito con il critico letterario e saggista Mario Turello. L'appuntamento è a Palazzo Antonini Stringer alle 16. Un film del 1943 ambientato tra il Friuli e Trieste, tratto da un dramma del san danielese Teobaldo Cicconi, è considerato perduto per decenni fino al ritrovamento in un archivio argentino grazie alla Cineteca del Friuli. Si chiama La statua vivente, lo diresse Camillo Mastrocinque e sarà proiettato questa sera alle 19.30 al Visionario di Udine con un'introduzione di Carlo Gabershek e Giorgio Placereani. Alcuni libri di cui si parla oggi: La patria alla frontiera, storia dell'irredentismo adriatico. Questo è il titolo dell'ultimo saggio di Fabio Todero, ricercatore dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea in Friuli Venezia Giulia, che lo ha appena pubblicato con La Terza e lo presenterà questa sera a Udine alla libreria Tarantola alle 18. Il giornalista saggista Martin Breccelli presenta invece a Trieste il suo libro Il triplice omicidio di via Rossetti, anatomia di un delitto politico nella Trieste occupata, che ricostruisce i fatti del 10 marzo 1944, quando il poeta e scrittore Stanko Vuk, dirigente dei cristiano sociali sloveni da poco rilasciato dal carcere fascista, fu assassinato assieme alla moglie, alle 18 alla libreria Ubic. Ancora a Trieste la libreria Lovat ospita lo scrittore Paolo Malaguti, che alle 18 presenterà il suo romanzo Fumo, edito da Einaudi, una storia ambientata tra le due guerre nella bassa del Po. Siamo alla pagina degli spettacoli, tutto esaurito questa sera al Teatro Bobbio di Trieste per il Big Comedy Ring Show, uno degli spettacoli più attesi nella stagione della Contrada. Sul palco i migliori comici di Zelig, Colorado, Beppe Braida, Claudio Batta, Stefano Chiodaroli, Simone Barbato, Pino Campagna, Marco Della Noce, Giancarlo Calabrugovic e Max Cavallari. Tra gli altri appuntamenti di questa sera, al Verdi di Pordenone va in scena La Gloria, un dramma sugli anni giovanili e i fallimenti artistici di Adolf Hitler. A Trieste, al Teatro dei Fabbri, Arianna Cremona e Claudio Righini interpretano in Blush 5 storie sul revenge porn. Per la musica, al Comunale di Monfalcone, il concerto dei Big One, una delle migliori tribute band dei Pink Floyd, e al Miela di Trieste suona la cantautrice Marta Del Grandi. Per la danza, San Vito al Tagliamento, in auditorium, lo Stravinsky della Sagra della Primavera con la compagnia Dewey Dell. Siamo allo sport con il basket a Bologna e in palio la Coppa Italia di Serie A2. In lizza le quattro migliori squadre del campionato in base alla classifica del girone d'andata. Il sogno è una finale tutta friulana, ma intanto oggi c'è il primo passo. Alle 18 l'Old Wild West Udine gioca contro Cantù, alle 20.30 la Gesteco Cividale affronterà Rimini. Il sogno di una finale tutta friulana con annessi e connessi Old Wild West Udine e Gesteco Cividale arrivano alla Final Four di Coppa Italia dei due con la possibilità di uno scontro all'atto conclusivo di domenica nel leggendario Paladozza. Davanti però a due ostacoli temibili, l'Apu ritrova la Cantù battuta due settimane fa in campionato, squadra forte anche senza il suo leader De Nicolao infortunato e che essendo di fatto fuori dalla lotta per la promozione punta molto sulla Coppa. Altrettanto non si può dire per i bianconeri, da Rossa e Kanji non saranno rischiati, anche Xavier Johnson potrebbe riposare in vista della ripresa del campionato. I friulani, primi e quasi senza più rivali per la corsa alla promozione, non possono permettersi azzardi, ma nella vetrina bolognese, dove ci saranno tutti gli addetti ai lavori, non esistono imprese impossibili. Alla semifinale delle 20.30 contro Rimini, ex capolista in disgrazia, 4 perse nelle ultime 5, unica vittoria proprio contro i locali, Cividale ci arriva invece sana e arrabbiata dopo la brutta figura di Vigevano. I playoff, nonostante una stagione ottima, sono a rischio e allora quale migliore occasione per la squadra di Pillastrini di provare a conquistare un titolo? Occhio alla sfida tra Giacomo Dell'Agnello, ala dei gialloblu che nel torneo giocheranno con divisa tricolore, e il padre Sandro, allenatore dei romagnoli. Bologna, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche nella pallanuoto sono i giorni delle finali di Coppa Italia. Si gioca a Napoli di scena alle migliori 8 del campionato. Nei quarti questa sera alle 20 Trieste affronta la bestia nera Roma Visnova che in A1 quest'anno ha battuto due volte gli alabardati. Chi passa il turno affronterà domani in semifinale la vincente tra Prorecco e Ortigia. Il calcio, un passo indietro anche nel gioco dopo il meno 4 della penalizzazione. La Triestina, sconfitta 2-0 sul campo dell'Albino Leffe, guarda ora con apprensione alla sfida interna di domenica con la Propatria, rivale diretta nella lotta per la salvezza. La più brutta triestina della nuova era Tesser perde senza attenuanti sul campo dell'Albino Leffe, evidenziando un calo fisico e mentale preoccupante in vista dell'ultima parte della stagione e rimanendo invischiata in piena zona play-out alla vigilia dello scontro diretto di domenica a Rocco contro la Propatria terz'ultima che insegue gli alabardati a 4 lunghezze in classifica. I gol arrivano uno per tempo. A sbloccare la gara sul finale della prima frazione è Zoma, abile a finalizzare al meglio una bella azione architettata da Parlati e Giannini con la difesa ospite col colpevolmente assente. Il raddoppio è firmato da Longo a metà ripresa, sempre Zoma crossa dalla sinistra, Agostinelli fa da sponda per l'attaccante che dal centro dell'area piccola batte Ross, autore poi di altre parate che hanno evitato il tracollo. Penso sia stato il più brutto primo tempo sotto la mia gestione e non siamo scesi con l'atteggiamento giusto, queste le parole di Tessera a fine gara. Nonostante le assenze non ci sono scusanti, quindi niente alibi. Da qualche giorno, continua il mister, c'è più tensione, mentre prima c'era grande serenità e fiducia. Non capisco il perché, dal momento che venivamo da 7 risultati utili consecutivi. Forse la risposta gliela possiamo dare noi, ricordando quei 4 punti di penalizzazione che hanno frenato la squadra nel momento migliore e che non derivano certo dalla conduzione tecnica, ma da quella societaria che appare sempre più confusa. Giorgio Bearz, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Daniele Lettige, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Samuel Montalto, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Sono le 12.53, la prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.